Era stata la mamma a spingerlo nel mondo della musica. Sembrava destinato alla delinquenza. I presupposti c'erano tutti, visto che inizia a bere a 9 anni, invogliato dal padre alcolizzato. La madre fa di tutto per portarselo in chiesa, dove canta negli Ever Ready Gospel Singers con degli acuti capaci di rompere i boccali di birra dell'Oktoberfest. Lui però ce la mette tutta per mettersi nei guai. Fa parte degli Shakers, una gang giovanile di Detroit. Viene espulso da scuola e passa 2 volte per il riformatorio. Prova con la box, che gli insegnerà tanto per le sue movenze sul palco, ma sempre la mamma lo convince a mollarla e iscriversi a un talent show della città. La concorrenza è spietata. I Royals e quel fenomeno di Leda Luelli John. Arriva terzo, ma fra il pubblico c'è quel cane da tartufi di Johnny Otis, all'epoca cacciatalenti della King Federal, che prova a farlo incidere, ma al capo Sid Nathan non piace. Nel 51 registra 2 single per la minuscola etichetta del trombettista jazz Dizzy Gillespie a nome Sonny Wilson, senza nessuna ripercussione. 2 anni dopo, spinto sempre dalla mamma, fa un'audizione per i Dominos, il gruppo più popolare dei primi anni 50. Billy Ward lo assume per merito delle suppliche della madre, preoccupata per la vita del figlio, dopo che era stato coltellato al petto da una prostituta. Ward capisce di avere un diamante grezzo fra le mani. Gli insegna a controllare la respirazione, gli dà lezioni di dizione e soprattutto gli fa da padre, insegnandogli tanta disciplina. Gli cambia anche il nome in Jackie, perché Jack, secondo lui, faceva molto zio Tom. Anche il cantante Clyde McFadden, prima di andarsene per formare i Drifter, gli insegna qualche trucchetto. Con la sua partenza, Jackie diventa la voce principale dei Dominos. Il primo single con il gruppo è questa You Can Keep a Good Man, dove mostra già tutta la sua versatilità. Nel 54, il padre padrone dei Dominos decide di accettare l'offertona di $5,000 settimana per suonare 2 anni a Las Vegas. Normale, i soldi erano quasi tutti per lui, visto che gli altri membri ne lasciava solo 100. Nell'aprile del 56, a guardare il palco della sala concerti del Sahara Hotel, c'è Elvis alla prima fallimentare esperienza a Las Vegas. Il re rimane a bocca aperta davanti al dinamismo di Wilson e si vorrebbe nascondere sotto il tavolo dopo una spumeggiante versione della sua Don't Be Cruel. Lo torna a vedere per 3 sere consecutive, si conoscono e stringono una lunghissima amicizia. Wilson, per le movenze sul palco, sarà soprannominato The Black Elvis, ma con il re condividerà solo la splendida voce e la pessima scelta del materiale registrato. Someone to care, someone to share, lonely hours and the moments of despair, to be loved. Nel 57, stufo di quel sergente di ferro di Ward, del basso salario e di rimanere sempre nello stesso posto, lascia il gruppo e torna a Detroit. Ottiene un ingaggio al Flame Bar, il locale del mafioso locale Al Green, che gestiva anche le carriere di Laverne Baker e Johnny Ray. Green gli fa firmare un contratto con la Brunswick, una filiale della Decca. Per l'etichetta, fra il 57 e il 61, c'entra una serie consecutiva di hit a firma del cugino Billy Davis e di un giovane ex pugile di nome Barry Gordy. Con il gruzzoletto ricavato dalle royalty delle canzoni di Wilson, Gordy cambierà il corso della musica creando la Motown. La sua carriera, come per altri cantanti dell'epoca, inizia a essere completamente gestita dalla mafia. Musicalmente è finito. I brani scelti, rovinati da eccessivi arrangiamenti orchestrali, sanno di fichi caramellati e non rendono giustizia alla sua splendida voce. Il soprannome, quello vero, Mr. Excitement, se lo guadagna sul palco. Il suo stile è una rivoluzione. Inventa un modo unico di muoversi con un fantastico gioco di piedi importato dalla box. Batte continuamente le mani, salta, fa piroette e spaccate, lancia il microfono in aria e cade in ginocchio. Roba mai vista prima. I suoi spettacoli generano incandescenti momenti di amore collettivo che sfiorano l'irrazionalità. Nel 61, per poco ci lascia le penne quando una fan si spara durante un concerto. Le sue performance influenzeranno praticamente ogni artista a venire, partendo da James Brown fino ad arrivare a Michael Jackson. Ma la sua vita è piena di eccessi. Può tranquillamente contendere a ozio la paternità di tutti i vizi. Beve a dismisura, fuma compulsivamente, si circonda di prostitute e fa uso di droghe. My heart is crying. Lonely teardrops. La fattura arriva il 6 novembre 1975, proprio mentre stava esibendosi di un'energica versione del suo brano più venduto, Lonely Teardrops. Esattamente dopo aver cantato le parole «Il mio cuore sta piangendo», si porta le mani al petto e stramazza per terra. La band continua a suonare pensando fosse parte dello show, ma Jackie non si rialza. Quell'arresto cardiaco lo terrà in coma per un anno e lo lascerà in stato vegetativo fino alla morte. Ma Jackie Wilson era già entrato nella storia con il suo esordio per la Brunswick, una canzone che gioca su un particolare rollio della R. Questa consonante in English ha un suono diverso rispetto ad altre lingue dove è più marcata. Per pronunciarla si deve spingere la lingua sui denti. Una sera, durante un concerto assieme a Dinah Washington, Jackie spinge talmente tanto che sputa in prima fila due capsule dentali che avvolgevano i suoi incisivi. Quella è stata l'ultima volta che dal vivo ha cantato Red Petit. She's so fine. all on me. Well, she really fills the clothes from my head to toe. I want the world to know I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves me and loves me at night. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. She's the finest girl you ever want. I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes. And with me she really rates. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's alright. She's got just what it takes. She's got what it takes. And with me she really rates. Dell'uomo comune. It's funny, honey, you don't care. Non era bello e sexy come Elvis, né maledetto come Jane Vincent, neppure pazzo come Jerry Lee Lewis. Si esibiva a Stratocaster al collo, con un completo elegante e degli occhiali con montature in plastica nera, consigliati da Don Everly, che diventeranno iconici. Era un ragazzo normale, dotato di un enorme talento. Esempio perfetto per la folta schiera di rocker che verranno. Baby, baby, I'll have you for me. La sua figura è di centrale importanza nello sviluppo della musica. Il suo rock and roll col magistrale trattamento pop influenzerà in modo decisivo quasi tutte le band dell'invasione britannica. Inoltre, stabilisce con i suoi Crickets la formazione base del rock, quella a quartetto con due chitarre, basso e batteria. In ottobre, nuovo single, un doppio lato A, che si apre con una cover di un brano del concittadino Sonny West, la beatlesiana Oh Boy. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. When you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. All of my life I've been when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right. I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Era uno dei brani preferiti dai Grateful Dead. Dal vivo l'hanno suonata in versioni molto dilatate, più di 500 volte, e l'hanno inserita nel loro album del 71, chiamato per via della copertina Skull and Roses. I Rolling Stones l'hanno scelto come primo single per sbarcare in America e far sapere a tutti quanto amassero anche loro quell'occhialuto ragazzo. Per quella B-side, Buddy Holly aveva scoppiazzato The Originator. Infatti, Not Fade Away non è altro che una rivisitazione del Bo Diddley beat. Pap, pap, pap, pap. Rock and roll è sempre stato di dominio assoluto degli uomini, ma dopo l'avvento del messia di Tupelo, un manipolo di ragazze ha provato ad emularlo. Pioniera assoluta è Janis Martin, che debutta quindicenne nel 56 per la RCA, la casa di Elvis. Il lato A del single, Will You Will You, sa ancora di Hank Williams, ma girando il disco c'è un pezzo scritto da lei. Questa Drugstore Rock and Roll, che è ufficialmente il primo pezzo rockabilly scritto da una donna. La RCA inizia a promozionarla come The Female Elvis. Le 750.000 copie vendute sembrano lanciarla, ma la sua carriera improvvisamente si tronca. L'anno successivo, la casa discografica scopre che è sposata e pure incinta. La notizia non piace per niente ai dirigenti. Avrebbe fatto crollare le vendite. Non potevano certo permettersi una fidanzatina d'America in dolce attesa. Con molto tatto la RCA la pone un bivio: continuare la gravidanza e diventare mamma, oppure rinunciare al bambino in cambio del successo. Le suggeriscono di abortire, una pratica illegale all'epoca. Il suo rifiuto coincide anche con la fine della sua carriera. Well, the baby's a chick with the plot side hair. You can't say this babe's a square. She likes her music with a solid beat. And when she starts to bop, you better go to your seat. Cause who bet is gone? Yes, she's gone all the way. And when baby fell, well, she really fell like I knew she would someday. Dopo di lei ne verranno altre come Barbara Pittman, Sperkel Moore o Joyce Green, ma soprattutto una leonessa dell'Oklahoma che si prenderà lo scettro di regina del rockabilly. Durante la Grande Depressione, la sua famiglia è una delle tante che emigra verso la terra promessa California in cerca di una fortuna che non esiste. Il padre, appassionato di musica e violinista, le regala una chitarra quando ha appena 6 anni. Le insegna a suonarla e ogni sera duettano nei classici della musica e libille del western swing. Nel 49 tornano a Modine, Oklahoma, dove il padre vende auto usate. Quando è adolescente, gli amici la convincono a partecipare a un'audizione per un programma radiofonico alla KLPR di Oklahoma City, dove interpreta Blue Yodel No. 6 di Jimmie Rodgers. La prestazione le vale un programma di 15 minuti tutto suo, dove canta i successi popolari del periodo, in particolare quelli di uno dei suoi artisti favoriti, Hank Thompson. Un giorno, proprio Thompson la sente cantare una sua canzone alla radio. Rimane talmente impressionato che chiama subito la KLPR. Il cantante si stupisce quando viene a sapere che dietro quella voce così matura si nasconde una 14enne. La fa cantare negli spettacoli con i suoi Brazos Valley Boys e le fa incidere delle demo per la Capitol, ma Ken Nelson, nonostante le piacesse quella voce, rinuncia a firmarla perché è minorenne. Nessuno scrupolo invece da parte della Decca, con la quale pubblica 7 single di country sentimentale, fra cui spicca un duetto con Billy Gray, della band di Thompson, che raggiunge l'ottavo posto nella classifica country. Nel 55, finito il liceo, viene invitata a partecipare a un tour con Elvis. È la svolta. Su suggerimento del re, decide di passare al rock and roll. Il debutto, con questa I Gotta Know, è esattamente a metà strada. Né carne né pesce, ma vende benino. Ci riprova con altre 2 single, con poca fortuna, ma si fa un'ottima reputazione sul palco, con concerti assieme a Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis o Carl Perkins. Nel novembre del 57 insiste per incidere un brano che eseguiva spesso dal vivo. Un pezzo scritto da Jack Emmer e registrato senza successo da Ernest Allen qualche anno prima. I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, yama, yama. La canzone, a causa del testo bello carico di ormoni, passa inosservata negli States, ma arriva sorprendentemente al numero uno in Giappone, nonostante gli accenni del testo alle distruzioni di Hiroshima e Nagasaki. È in Giappone, dove il brano rimane al primo posto per 6 mesi, che Wanda Jackson viene incoronata regina del rockabilly grazie all'esplosiva Fujiyama Mama! I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Ci hanno ingannato per secoli tacendo che la Terra è piatta solo per vendere milioni di mappamondi come soprammobili? Il cambio climatico è un'invenzione delle case di moda per giustificare che non esistono più le mezze stagioni? Le scie chimiche non sono microparticelle usate per renderci più mansueti, ma dei messaggi in codice degli Illuminati e Venusiani per l'assalto alla conquista del potere totale? Non usi dentifrici fluorati perché i denti proprio non te li lavi come Joe Strummer. Cioccolato bianco, la storia del rock, quella vera. Is out all over town. gli piaceva lo chiamassero il Killer, un soprannome che veniva dall'epoca scolastica. Era stato bocciato con la peggior nota, tutte F, equivalente a zero in ogni materia, ma lui pazientemente le converte tutte in A, ribaltando completamente l'esito con un promosso a pieni voti. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, forte della pagella falsificata, si presenta in aula con i vecchi compagni. Quando il professore gli fa notare che quella non è la sua classe, lui risponde che da lì non si muove. Dopo un diverbio, i due vengono alle mani. Il ragazzo riesce ad afferrare la cravatta del professore e tirando con forza cerca di strangolarlo. Servono due professori per dividerli. Jerry Lee viene mandato dal preside. Nell'ufficio c'è anche l'amico Cecil Harrison, anche lui per problemi con l'autorità. Il preside lo sospende per 2 settimane perché non può andare in giro killing teachers. Quando escono da scuola, Harrison, anche lui espulso, lo saluta dicendogli: ci vediamo fra 2 settimane, killer! Jerry Lee Lewis. Domenica 28 luglio 1957, il killer è al suo debutto televisivo. Il palcoscenico è quello dello show di Steve Allen, lo stesso che aveva ridicolizzato Elvis costringendolo a cantare in smoking davanti a un cane. La performance entra nella leggenda con una stratosferica versione di Whole A Lotta Shaking Going On. Come on over, baby. We got chicken in the barn. Who's the barn? What's the barn? My barn. Come on, honey. Jerry Lee sembra posseduto. I lunghi riccioli biondi gli coprono il viso muovendosi al ritmo infernale di quella canzone suonata con una ferocia inaudita. Dopo lussuriosi e realistici ammiccamenti sessuali, si alza in piedi per percuotere selvaggiamente il piano, scalciando lo sgabello. Non male come debutto in televisione. Now let's go. Shake! Shake! Shake! Quella prestazione epica aveva impressionato Otis Blackwell, autore della meravigliosa Fever di Little Willie John e due successoni per il re come Don't Be Cruel e All Shook Up. Blackwell decide di proporre al killer un brano che aveva scritto assieme all'amico Jack Hammer. Durante le registrazioni, però, Jerry Lee ha un ripensamento. Non vuole registrare quel brano perché è convinto lo porti dritto all'inferno. Quelle vampate di fuoco gli ricordano la manifestazione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste sotto forma di lingue di fuoco. Nasce un'accesa discussione con Sam Phillips, che deve armarsi di tutta la sua pazienza e conoscenza della Bibbia per convincere Jerry Lee a registrare quel brano che diventerà la sua canzone simbolo. Uno dei pezzi più emblematici e imprescindibili del rock and roll. La straripante Great Balls of Fire! You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nails and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And it's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nails and I twiddle on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. But in this great, it's just great balls of fire. Fosse giusta e non la scrivessero solo i vincitori, questa Space Guitar del visionario Johnny Guitar Watson dell'aprile del 54 sarebbe considerata come il primo brano di rock strumentale. Ma il disco, vista la proposta musicale, vende meno delle Caldarroste a Ferragosto, troppo avanti per l'epoca. Far capire a tutti che anche senza cantante si potevano frequentare i piani alti delle classifiche è stato Bill Doggett. La sua Honky Tonk nel 56 aveva raggiunto il numero 1 rhythm and blues e si era classificato al secondo posto in quella pop, ma in fondo si trattava sempre di musica nera, non di rock and roll. Ci vuole un altro Bill, Justice questa volta, per far entrare il rock strumentale nelle classifiche. Il pezzo non solo va ai vertici delle Hit Parade, ma diventa la scintilla che scatenerà quel rock strumentale, ultimo e inespugnabile baluardo della musica giovanile, ormai corrotta dall'industria discografica. Bill Justice era cresciuto a Memphis in una benestante famiglia bianca. Dopo la laurea in inglese e musica, suona la tromba in gruppi jazz della città. Un giorno legge un articolo su Buck Ram e sui soldi che gli erano piovuti dal cielo con quei due mega hit dei Platters. Bill decide di provarci. Lascia la tromba per il sassofono e investe $80 in dischi per conoscere più a fondo quello che chiamavano rock and roll. A Memphis la parola musica era sinonimo degli studi Sun, Così bussa alla porta di Sam Phillips, che nel 57 lo assume come direttore musicale. La Bill Justice Orchestra suona in molti brani dell'etichetta e vede fra le sue fila Billy Lee Riley al basso, il Grimman Jimmy Van Eaton alla batteria, il pianista Jimmy Wilson e il chitarrista Sid Meinker. Essendo uno dei pochi a saper leggere la musica alla Sun, Bill ha realizzato la maggior parte degli arrangiamenti dell'etichetta nel biennio 57-59. Nella primavera del 59, infatti, sia lui che Cowboy Clement sono misteriosamente licenziati da Sam Phillips per insubordinazione. In novembre pubblica un brano scritto assieme al chitarrista Sid Meinker, basato su una vecchia melodia ricordo dell'infanzia trascorso a Birmingham, in Alabama. Il pezzo è un alternarsi fra il sassofono di Justice e la innovativa chitarra di Meinker. Quel suono nasale e cremoso verrà battezzato twang e sarà uno degli ingredienti fondamentali di tutto il rock strumentale degli anni a venire. Il titolo iniziale del brano era Backward, ma dopo averla sentita, qualcuno in studio esclama un'espressione slang adolescenziale dell'epoca: è ronci. Iniziato il 10 dicembre del 57 negli studi Gold Star di Hollywood con una session per un gruppo vocale chiamato Kurf Links. Ad accompagnarli in una cover dei Casuals ci sono 5 ragazzi. Dave Burgess, il chitarrista, era l'unico che poteva vantare esperienza musicale. Aveva alle spalle qualche single senza successo ed era sessionman per la neonata etichetta di Jane Autry, la Challenge. Gli altri sono Clee Phil al basso e il Danny Flores Trio, composto dal sassofonista Danny Flores, Buddy Bruce alla chitarra e Jane Holden alla batteria. Quando i Doo Whoppers se ne vanno, i cinque rimangono in studio a improvvisare qualcosa. Il produttore e coproprietario della discografica, Joe Johnson, rimane impressionato e dice loro di tornare il 23 dicembre per registrare qualche strumentale, visto l'incredibile successo di Ronchi di Bill Justice. La session, della durata di 3 ore, era stata quasi interamente dedicata al lato A, questa Train to Nowhere. Con soli 10 minuti a disposizione, si inventano un pezzo con sapore Tex-Mex che come lato B poteva pure andare bene. I cinque non hanno ancora un nome, così decidono di battezzarsi Champions, accorciato in The Champs, dal nome del cavallo del fondatore dell'etichetta. Il single è pubblicato il 15 gennaio 58, ma non riscuote successo finché un DJ di Cleveland non inizia a suonare il lato B, seguito da quasi tutte le radio del paese. Il pezzo schizza in cima alle classifiche pop e rhythm and blues e vende 1 milione di copie in pochissimo tempo. Como mi ritmo no hay da. Como mi ritmo no hay da. Con il successo vengono numerose richieste di concerti e iniziano i problemi. I contrasti fra Danny Flores e Dale Burgess per assumere il liderato del gruppo portano all'uscita del sassofonista e di altri 3 componenti. I Champs, sotto la guida di Burgess, continueranno ancora, ma sostanzialmente verranno ricordati solo per quel brano registrato in fretta, basato sul ritmo cubano Como mi ritmo no hay dos di Israel Cachao e chiamato come la bevanda preferita di Danny Flores. Tequila! Sometimes I will, then again I think I won't. primo novembre del 57, all'Auditorium Arena di Denver, va in scena il Biggest Show of the Stars, un super carrozzone con Chuck Berry, Fats Domino, Laverne Baker, Frankie Lymon, Everly Brothers, Eddie Cochran e Buddy Holly e i suoi Crickets. Well, I looked at my watch, it was 9:32. There's nothing I'd rather do than dance with you. Reeling and rocking. Chuck Berry, dopo aver aperto il concerto, si concede ai fans firmando qualche autografo, quando nota una ragazzina. Indossava un vestito giallo fiorito e correva come una matta attorno all'ovale dell'auditorium in cerca di autografi, agitando in continuazione il suo block notice. Non le interessava chi stesse suonando, era solo impegnata a collezionare autografi. Chuck non è riuscito a parlare con quella ragazza, ma le servirà di ispirazione per scrivere uno dei suoi brani più famosi. Il pezzo verrà immortalato con tanto di duck walk nel film documentario di Bear Stearns, Jason Summer's Day, registrato nel luglio del 58 al Newport Jazz Festival. Chuck non è riuscito a sapere il nome di quella ragazzina, così ha deciso di intitolare la canzone semplicemente Sweet Little 16. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16. She just got to have about a half a million. Famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her run. Boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg. Whisper to mommy, it's all right with you. Cause they'll be rocking on bandstanding in Philadelphia, PA. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay. All over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little 16. They'll be rocking on bandstand, Philadelphia, PA. Deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay. All over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16. She's got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be Sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Way out of St. Louis, way down in all the cats wanna dance with Sweet Little 16. Going back to Birmingham, way down in Alabama. Going back to Birmingham. way down in Alabama. Oh yeah, but see my old Aunt Mary and my good old Uncle Sam. Sembrava impossibile che la star più appariscente, eccentrica e disinibita del rock and roll si fosse ritirata. Qualcuno pensava fosse una vendetta nei confronti dell'avido Art Rue, che gli lasciava solo qualche spicciolo per ogni single venduto. Ma la realtà era che Little Richard aveva lasciato vizi e peccati per dedicarsi a predicare la parola dell'Onnipotente. Si era rinchiuso nell'Oakwood College di Huntsville, in Alabama, e ci rimarrà fino al 62, quando andrà in Inghilterra a insegnare a McCartney a cantare. Forma il Little Rich Evangelistic Team per predicare in tutto il paese. Registra dimenticabili dischi di pura musica gospel, ma fortunatamente, prima della clausura, la specialty per rispettare obblighi contrattuali gli fa registrare delle session. Il primo single pubblicato, con una intro copiata da Rocket 88, è un altro elettrizzante temazzo. Il titolo è ispirato da una frase tipica di uno dei suoi DJ preferiti, Jimmy Panic. Quando era in onda, ripeteva sempre Good girl, Miss Molly! E per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco. La storia del rock, quella vera.